sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il mio primo amore, sai. Donna, donna, musica tu. Donna, donna, sei un po' di più. Donna, donna, musica tu. Hai sempre una mancia in più. Donna, donna, musica tu. Mi prendi bene soltanto tu. Quando sono insieme a te c'è un concerto dentro di me. Quando bevo il mio caffè tu sei lo zucchero più dolce che c'è. Quando faccio l'amore conosco per dar del tuo all'allegria e ascoltare piano un disco insieme alla donna mia. Donna, donna, musica tu. Donna, donna, sei un po' di più. Donna, donna, musica tu.